elementi che tradivano il permanere di una tradizione tardogotica. Alcuni documenti che riguardano lavori edili condotti dal Presule proprio durante il 1475 consentono forse di proporre una spiegazione della apparente contraddizione. Nel cantiere documentato, infatti, sono impegnati da un lato maestri da muro italiani, Walschenmaurer, dall'altra lapicidi tedeschi, Deutschen Steinmetzen. Lapicidi che esprimevano ancora un linguaggio di transizione, ma stavolta di ascendenza veneta, realizzarono invece la grande polifora con gli archi trilobati che dall'ultimo piano del Buon Consiglio, fatto sopraelevare dal principe, offre la vista sulla valle dell'Adige. Se è possibile chiarire in modo quasi soddisfacente l'entità e delineare una pur sommaria cronologia di quanto fatto realizzare da Linderbach nel nucleo degli edifici medievali del Buon Consiglio, conosciamo meno quanto realizzato dal Presule nell'area dei giardini. Fin dal 1470 il principe vescovo datava alcuni atti dal viridario novo Castri Boni Consigli versus Porta Maquile, dove amava soggiornare e che dotò, come accenna la lettera Zovenzoni, di un impianto idraulico che venne ricordato come realizzazione tecnica di una certa complessità, dato che aveva implicato la captazione delle acque da varie vene a monte del castello e il loro trasporto in quota con un condotto pensile che consentisse di superare il fossato che isola il dorso del Buon Consiglio. Se possiamo credere a Gian Piero Pincio, ben informato cronista che scrive nei primi decenni del Cinquecento e che frequenta personalmente la corte di Bernardo Clesio, successore di Linderbach, l'acquedotto fatto realizzare da Linderbach nel tratto pensile era di fatto esemplato sugli acquedotti romani antichi. Infatti, pur costruito in legno, cito da una traduzione seicentesca della cronaca, un ponte di legni a guisa di macchina in forma d'arco piegata conduceva le acque alla rocca, ove, riprendo la citazione, in sotterranei cannoni ricevuta più oltre s'avanza, col suo dolce corso, sin dove viene trasmessa in una concava colonna di marmo, cioè in un elemento absidato di stampo classico. E riprende, ivi di nuovo in altri sotterranei cannoni sommergendosi, scorre al giardino sotto il castello situato, ove, compendio la citazione, salta in un lago a tale effetto preparato e ivi s'aduna, qual a nostri tempi il cardinale Ecclesio, il cardinale Ecclesio fece con nobile struttura abbellire e rinnovare, e qui si fa cenno e il rimando è anche letterale ad un altro punto della cronaca. È chiaro che Ecclesio abbia utilizzato le canalizzazioni fatte realizzare da Linderbach per alimentare una fontana che ebbe varie vicende. Per l'introduzione dei giardini di queste acque in rigue, come le chiama, Linderbach fece approntare una targa nel 1478 che lo celebrava come Pontifex Urbis, implicitamente paragonato a Mosè, capace di far sgorgare le acque dalla roccia. Per arricchire ulteriormente le delizie del giardino, che doveva già richiamare i suoi amici con la vegetazione rigogliosa e un'altra fonte marmorea che gettava questa volta vino, Linderbach, come ricorda il suo unicorno ed un'epigrafe fatta approntare all'inizio del Cinquecento dal suo successore Bernardo Clesio, fece costruire una grande torre cilindrica in aderenza alla cella binaria sotterranea, l'una e l'altra ora inglobate nelle strutture del Magno Palazzo Clesiano. Quondam turis episcopo Ioanni hic incepta fuit, sed auta Clesi Bernardi hoc modo. Della torre, un tempo affrescata ed affiancata da una loggia di cui oggi rimangono le mensole d'imposta, il principe vescovo avrebbe potuto godere tutto intorno la vista degli amati giardini e della sua città. La loggia circolare di coronamento, le cui strutture sono ancora oggi in parte visibili dopo i recenti restauri, realizzata con archi a tutto sesto, impostati su pilastrini con specchiature modonate, avrebbe certo soddisfatto il gusto classico, coltivato con l'interesse antiquari di stampo umanistico, degli amici del Presule. Di Pio II, che discuteva con Leon Battista Alberti delle reliquie dell'antichità classica visitate nella campagna romana, fra cui gli acquedotti, di Raffaele Zovenzoni, che dedicò a Linderbach la propria opera poetica, che testimonia della condivisione delle esperienze artistiche più avanzate del tempo in ambito veneto, di Felice Feliciano, antiquario veronese, che in compagnia di Andrea Mantegna e probabilmente dell'ingegnere di Gonzaga Giovanni da Padova ricercava, come sappiamo fece in altre occasioni anche a Trento e in altre compagnie probabilmente, epigrafe e reliquie dell'antichità sulle sponde del Garda. Con questa opera nel giardino Hinderbach giungeva certo al culmine della sua attività di committente e forse dobbiamo aggiungere intendente d'architettura. In essa poteva trovare, come suggeriva fosse corretto Leon Battista Alberti nel suo trattato di pittura, che sappiamo Hinderbach studiò su un codice della redazione della Latina da lui posseduta, archi impostati su pilastri e non più su colonne. Poteva ritrovare, cioè, la sintassi costruttiva di quegli archi trionfali romani che aveva osservato con attenzione, tanto da individuare su quello dei Gavi a Verona il nome dell'architetto Vitruvio, del quale, a nota il Presule, rimane ancora oggi il trattato sull'architettura. Grazie dottor Dell'Antonio per la sua sintetica, brillante, concisa esposizione sugli interessi umanistici e l'impegno pratico di Hinderbach.